Buonasera a voi tutti. Vi ho promesso ieri sera una motivazione che ora vi leggerò. La crisi della maggioranza di governo è intervenuta dopo che in Parlamento si erano aperti spiragli di dialogo tra le forze politiche per una modifica della legge elettorale vigente e di alcune importanti norme della Costituzione. La preoccupazione che senza tali modifiche non si possa realizzare la necessaria stabilità politica ed efficienza istituzionale si è negli ultimi tempi e ancora in questi giorni chiaramente espressa nel modo più imparziale in seno all'opinione pubblica e a significative rappresentanze del mondo economico e della società civile. Una modifica della legge elettorale è stata d'altronde sollecitata attraverso una richiesta di referendum dichiarata ammissibile dalla Corte Costituzionale. Ho perciò prospettato a tutti i partiti e i gruppi politici da me consultati l'esigenza di una soluzione della crisi di governo che in tempi brevi dia almeno avvio agli indispensabili processi di riforma e a credibili impegni di più costruttivo e fruttuoso dialogo tra gli opposti schieramenti. Dialogo da me costantemente auspicato e obiettivamente necessario qualunque sia il risultato di nuove elezioni. Questa soluzione è stata considerata impraticabile da quelle forze politiche che hanno indicato nello scioglimento delle Camere e nella convocazione delle elezioni sulla base della legge vigente il solo sbocco dell'attuale crisi politica. Nel ribadire attenzione e rispetto per tutte le posizioni illustratemi, ricordo tuttavia che sciogliere anticipatamente le Camere ha sempre rappresentato la decisione più impegnativa e grave affidata dalla Costituzione al Presidente della Repubblica. E questa volta la decisione dovrebbe essere assunta a meno di 2 anni dalle ultime elezioni. Considero perciò mio dovere riservarmi un'adeguata ponderazione e valutazione conclusiva, il che non può essere da nessuna parte inteso come scelta rituale o dilatoria. Ho pertanto chiesto al Presidente del Senato, facendo appello al suo senso di responsabilità istituzionale, di verificare le possibilità di consenso su un preciso progetto di riforma della legge elettorale e di sostegno a un governo che sia funzionale all'approvazione di quel progetto e all'assunzione delle decisioni più urgenti in alcuni campi. Grazie.